Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Subito l'indirizzo mail al quale scrivere le vostre lettere. Mi raccomando che rappresentino non un caso isolato o personale, ma una moltitudine di persone, insomma che siano interessanti per chi ci ascolta. La mail è unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore, giornale del quale sono inviato. Il mio blog è robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Il blog si chiama Guardie o Ladri, come la trasmissione che conduco sempre su Radio 24 il sabato alle 19.30. Bene, ricorderete che alcune settimane fa abbiamo avuto nostro ospite il presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Si celebrava la giornata che appunto deve sensibilizzare tutti sulle problematiche di chi è diversamente abile in questa categoria di persone, e noi ci torniamo perché? Perché ci siamo accorti, grazie proprio alle segnalazioni della stessa Unione Italiana Ciechi e di altri radioascoltatori, che c'è ancora un deficit legislativo difficilmente giustificabile. E vorrei che questo deficit legislativo, che mette in serie difficoltà negli istituti scolastici ciechi ed ipovedenti, fosse proprio raccontato dal presidente che ho di nuovo il piacere di avere ospite, Tommaso Daniele. Buongiorno Daniele. Buongiorno. C'è un deficit non solo legislativo, ma c'è anche un deficit culturale. Si fa grande fatica a far capire alle istituzioni e all'opinione pubblica che nel terzo millennio non applicare le leggi diventa veramente un segno di inciviltà. Assolutamente. Ecco, noi parliamo di una legge che manca dal 2000, o meglio, la legge c'è, ma poi che cos'è che mancano? Diciamolo subito. I quattrini, i soldi, le risorse, per fare cosa? Si tratta di un abuso che dura da 8 anni, non un abuso al giorno, qui un abuso che dura da 8 anni, una legge dello Stato voluta fortemente dall'Unione Italiana dei Ciechi per andare a colmare le lacune che c'era nel sostegno all'integrazione scolastica, perché noi abbiamo fatto la scelta di mettere i nostri ragazzi nella scuola di tutti, però come succede per la chiusura dei manicomi, come succede per altre normative italiane, non si creano mai le condizioni poi perché certe politiche vengano attuate concretamente. Ecco, ed infatti lei ricordava bene, lei ha usato un riferimento ai manicomi. Colgo l'occasione per dire ai radioascoltatori che dopo l'attenzione che avete prestato, le puntate che abbiamo mandato in onda sulle persone che hanno dei problemi mentali, dico che ci torneremo, perché ne abbiamo veramente ricevute tante di mail, e quindi prossimamente ritorneremo sul problema delle persone che hanno problemi mentali. Prego Daniele, continui pure. Per andare subito al tema, abbiamo strappato delle risorse allo Stato per sostenere l'integrazione scolastica. Ecco, quanto? Una ventina di miliardi delle vecchie lire. Quindi circa 10 milioni di euro per sostenere l'integrazione scolastica dei ciechi e dei sordi. Ecco, riguardava i minorati sensoriali. Ecco, ricordiamolo, anche dei sordomuti, giustissimo. Esatto. E di quei soldi niente. Questa legge, per poter avere effetto, doveva essere regolamentata. C'è stato fatto un primo regolamento dopo un paio d'anni, sempre grazie alle nostre pressioni. Ci sono state osservazioni da parte della Corte dei Conti perché il regolamento andava oltre lo spirito della legge. Poi il Ministero non ha risposto per 4-5 anni, non ha risposto alle osservazioni della Corte dei Conti. Ecco, mi consenta una battuta, visto che una battuta, qualcuno magari potrà anche criticarmi perché già si fa della facile ironia, no, non è questo il senso, ma la mia battuta è questa: visto che si tratta di regolamentare l'integrazione dei ciechi e dei sordomuti, il governo non ci sente. Sì, e non ci vede neppure. E non ci vede neppure. Lei si è offeso per questa battuta? Assolutamente. Oh, evviva Dio, bene così. No, sa perché? Glielo dico, perché a volte ci sono dei radioascoltatori che sono sensibilissimi, che non sono in grado nemmeno di cogliere alcune sfumature ironiche. Allora, io mi rivolgo adesso all'avvocato Paolo Colombo, che è responsabile del Centro Documentazione Giuridica dell'Unione Italiana Ciechi. Allora, Colombo, buongiorno innanzitutto. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma lei si è offeso, no? No, no, sicuramente. Allora, perché allora il governo e comunque il Parlamento, non diciamo soltanto il governo, che qui centrodestra, centrosinistra è uguale, come mai il Parlamento non ci vede e non ci sente, secondo lei? Ma l'Unione Italiana Ciechi aveva, dopo le obiezioni formulate dalla Corte dei Conti, aveva riformulato questo regolamento di attuazione appunto per rendere effettiva definitivamente l'applicazione di questa legge, e nel 2007 il Ministero dell'Economia ha espresso un parere negativo in quanto, secondo il Ministero, questo tipo di norma andava contro lo spirito ormai presente ai nostri giorni, che è quello dell'integrazione scolastica dei minorati della vista e dei sordomuti nella scuola ordinaria. E questo per noi è veramente un paradosso, perché questa legge è proprio finalizzata a rendere effettiva l'integrazione nella scuola ordinaria e nella scuola comune. L'Unione Italiana Ciechi si è battuta, si sta battendo e si batterà nel futuro proprio per rendere effettiva questa integrazione. Difatti si voleva creare un sistema di istituti, di scuole di supporto all'integrazione scolastica nella scuola ordinaria, e invece il Ministero dice che finanziando questa legge, rendendo effettiva questa legge, si potrebbe correre il pericolo di creare, di tornare alla scuola speciale. Insomma, fanno le orecchie da mercante, un'altra, come dire, usiamo un'altra immagine che può, come dire, anche calamitare l'attenzione dei nostri radioascoltatori. E le chiedo, ma voi ultimamente, avvocato Colombo, avete avuto contatti con il Parlamento, con i parlamentari, magari quelli più sensibili, più vicini alle vostre problematiche, oppure proprio da quell'orecchio non ci vogliono sentire? Ma l'Unione Italiana Ciechi è quotidianamente impegnata sia sulle autorità di governo, del Ministero, e sia sui parlamentari, e però purtroppo si incontrano delle enormi difficoltà, si fa veramente fatica a comprendere che affermare dei principi solo sulla carta, però poi non dare gli strumenti per realizzarli, significa in sostanza trovarsi di fronte a delle situazioni di diritti. E ha perfettamente ragione. Le mie forzature linguistiche, lo dico ancora una volta, e le mie battute servono soltanto per svegliare l'attenzione di questi parlamentari che da 8 anni sono in difetto. Com'è possibile integrare chi non ci vede o chi ci vede poco, chi non ci sente o ci sente poco, se non arrivano quelle risorse di cui oggi la scuola ha un grandissimo bisogno? Noi, cari radioascoltatori, avremmo tanto voluto che qualcuno ce lo spiegasse dall'altra parte, vale a dire di quel Ministero dell'Economia, di quel Ministero dell'Istruzione, che la lettera che ci ha inviato il presidente dell'Unione Italiana Ciechi, Tommaso Daniele, e lo abbiamo sentito dalle sue stesse parole, ci indicavano come gli interlocutori. Bene, voi sapete che io lo faccio sempre, cerco sempre tutti gli interlocutori chiamati in causa dalle vicende. Allora, Laura Fagini, che è la mia assistente, lo dico perché qualche altro radioascoltatore ci ha mandato qualche simpatica mail, cui diceva: ma perché ringraziate sempre alla fine la regia, gli assistenti? Beh, perché altrimenti i programmi non si farebbero, no? Ecco, quindi semplicissimo, con questa risposta credo di aver dato conto a quanti si arrabbiano perché citiamo i collaboratori. Allora, la mia assistente ha chiamato, anzi ha tampinato Ministero dell'Economia e Ministero dell'Istruzione. Abbiamo cercato per più di un mese, lì abbiamo cercato per più di un mese, la risposta non è venuta, è straordinario, perché proprio nemmeno rispondono, nonostante l'ultima mail che gli abbiamo mandato lunedì 20 ottobre 2008 alle ore 11.36 al Ministero della Pubblica Istruzione, alle 12.48 a quello dell'Economia, dicessero chiaro e tondo che se non fossero intervenuti, se non avessero comunque detto la loro, noi avremmo dato conto di questo ai nostri radioascoltatori. Niente, Daniele, non è servito nemmeno questo qui, proprio non vogliono stare ad ascoltare, e nemmeno noi. Perché dovrebbero dire come impiegano le risorse che sono destinate ai ciechi e ai sordomuti. E come le impiegano? Le usano in maniera impropria, le distribuiscono queste risorse alle scuole indiscriminatamente, a pioggia, quindi per servizi non previsti dalla legge. Per carità, tutti i soldi dati alla scuola sono benedetti, ma questi soldi sono stati stanziati dal Parlamento italiano per essere destinati ai minorati sensoriali, e invece finiscono a pioggia in mille rivoli nelle diverse scuole sulla legge, per l'offerta formativa, la legge 40. E questo sicuramente non è corretto, anche perché ovviamente i problemi non sono gli stessi per tutte le categorie di alunni. Io prometto ai nostri radioascoltatori che continueremo ad interessarci della vicenda. Grazie a Tommaso Daniele e a Paolo Colombo, in regia Valeria Bernardi, in studio alla già citata Laura Faggin. Roberto Gallullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.